sta bene. Ha scritto. Ripeta. Cretino. Non si poteva più andare avanti senza un indirizzo preciso. Ci voleva proprio un uomo come lei. Precisi. Precisi. Bisogna essere precisi. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Congratulazioni. Io vorrei... Reprimere! Si respira un'aria di sesso, di piacere, morbosa, dannunziana. E poi sangue. È la sua mente che mi eccita. Viene violentata nella gola e ricoperta di microscopi. Viene soffocata con dei biglietti da violentata dopo il decesso. A gambe larghe, così, non ti muovere. Non ti muovere. Lo champagne chiarisce le idee. Ma non c'è niente da chiarire, io sono innocente. Vi sono tutti innocenti. Dentro l'unico colpevole sono io. Un individuo al di sopra di ogni sospetto. Me ne accorgerete quando non ci sarò più. Silenzio, un momento. Non ho finito. Silenzio, un momento. Non ho finito. Silenzio, un momento. Non ho finito. Silenzio, un momento. Non ho finito. Noi siamo a guardia della legge. Ci vogliamo imputabile. Colpita nel tempo. Ho lasciato indizi, non aver più. non per guardare le indagini.